verso il mondo reale, e a quel minuto per me mi fa leggere questo regolo. E complimenti ovviamente a tutte e tutte noi per le idee e per le azioni che ne conseguono. Insomma, stasera ci sono tantissime realtà qui. Questo, insomma, adesso in questo periodo in cui le macro forze cercano di dividerci, in cui il modello estrattivista, la nuova strategia del sistema dominante per schiacciarci tutti, sta cercando di mettere in atto, invece non siamo che ci uniamo. Questa è già una nota di entusiasmo che volevo mettere. Ma qua siamo, cioè, sono qui insieme ad altri della comunità di resistenza contadina Gerona Rose, Cittadiniano, Adrio, Francesco Pilar, che sta sistemando un po' l'aperitivo, e siamo in modo trentino di Genova clandestino. Come collettivo, connettivo e comunità, in realtà contadine agroecologiche intorno a Firenze, ci rendiamo conto molto bene di quello che vuol dire il modello estrattivista e quello che vuol dire la turistificazione, non solo a Firenze, ma poi anche nei dintorni. La città e la campagna, soprattutto qua, sono sempre andate molto insieme, e anche in queste problematiche vanno avanti insieme, e di conseguenza speriamo anche nelle soluzioni. Vorrei, visto che se non poi mi perdo a parlare, a filosofeggiare, eccetera, leggere una parte qui del manifesto, molto bello, quindi approfitto per ricordarvi di leggere e guardarlo, e ci sono dei fogli stampati di essi, no, nel sito, eccetera. La campagna fiorentina e la sua immagine nota ancora più da sette costellata di mille paesi immersi tra le colline, non poteva sfuggire a questi processi, ed ormai affianca l'offerta ricettiva e ricreativa cittadina, offrendo attività e sistemazioni più o meno lussuose. Questo processo, che non esclude piccole proprietà allettate da nuove opportunità economiche, comporta l'ingresso sulla scena di grandi investitori interessati all'acquisto e alla trasformazione di casolari, terreni e in alcuni casi di interi paesi in blocco, per finalità economiche che, oltre a ricalcare la stessa idea di sviluppo, turismo centrica, solo in piccolissima parte ridistribuiscono ricchezza nei territori. La storia del patrimonio Lombardi racconta uno di questi episodi, in cui un vasto appezzamento di terreno pubblico è stato preso di mira da parte di investitori esteri per la realizzazione di un resort di lusso, ma allo stesso tempo l'occasione per la nascita di un'esperienza a carattere sperimentale basata sulla partecipazione a vari livelli e finalizzata alla valorizzazione della terra come risorsa e bene comune. Infatti, proprio quando a Firenze, abbiamo tutto quello di cui stavamo parlando prima, Riccardo, Ilaria, lo stesso, insomma, proprio quando stanno grosse multinazionali stanno pian piano, insomma, acquistando e prendendo spazi, togliendolo poi in conseguenza a chi ci vive e a chi può legare, poi insomma aggiungere un substrato culturale alla città in cui vive, lo stesso avviene a pochi chilometri da qua. Quindi fino a poco tempo fa, insomma, c'era si pensava che per interessati, ed era così, dell'acquisto dei molteggi ci fosse una multinazionale, la Constellation Brand, che controlla numerosi marchi di fuori, soprattutto in Centro America, che è coinvolta in tanti problemi di lotta ambientale, perché insomma, sulle risorse e sull'estrattivismo, principalmente dell'acqua. Quindi ecco, sono problematiche che dobbiamo affrontare insieme, per questo che siamo qua, come Comunità di Resistenza Contadina, come Gino Grandissimo Firenze, proprio anche per dare sostegno alla mano. Il primo, il secondo e il 3 di marzo ci saremo, tutto comincerà proprio poi il 1 di marzo a presidio per l'asta di Mondeggi, e quindi insomma cerchiamo di trovare le strategie veramente insieme e di considerare quindi la città e la campagna e il diritto alla città e il diritto alla campagna, per citare il bellissimo libro, insomma, fare andare insieme, perché, insomma, siamo insieme delle due cose, e soprattutto chi vive qui in questo territorio se ne rende conto. Ma sono stato veloce, credo. Da questo sì, è parte del manifesto del sé. No, questa parte sulla parte aggiunta, sulla parte del. Non è proprio il manifesto, è quello che è stato, sì, esatto. Sì, sì. No, perché c'erano varie, ci sono state varie versioni di testo. Comunque si trovano sul blog, sul sito, un sito blog di Sergio, quindi ti puoi andare a leggere. Sì, l'aggressione all'ambiente di vita, all'habitat, se volete, deve essere la città storica, deve essere anche le campagne. Quindi è importantissimo il collegamento e l'unità tra cittadini e contadini. Ora ha chiesto la parola Marco, che parla a nome suo. Noi facciamo parlare. Allora, prima cosa, il complimento per questa iniziativa, ovviamente tocca un punto molto sensibile per tutti noi, quindi bene, insomma, speriamo che sia... Allora, sono Marco Giovannoni, ho un blog che si chiama Viaggiatore Critico, che si occupa appunto di fatti turistici da un punto di vista più sociale, più di atteggiamento del turista. Allora, volevo dire due cose, praticamente. La prima è che è una cosa ovvia, è assolutamente ovvia, però spesso viene dimenticata ed è bene ricordarla sempre. Allora, perché c'è questo fenomeno a Firenze e non in altri luoghi, o a Venezia e non in altri luoghi? Perché tutto sommato il turismo si basa su quelli che sono gli attrattori turistici, che sono cose che sono i siti, il Ponte Vecchio, il centro di Firenze, la galleria dell'Accademia, tutto l'altro, che richiamano turisti. Ora, la faccia è che tutte queste cose qua, con l'esclusione insomma di vedere a terra, tutto il resto delle cose, le piazze, le strade, il paesaggio toscano di cui parlava Mondesi, sono cose pubbliche. Ora non so più quale discendente dei medici, a un certo punto prese la loro condizione di opere, di padre, e la regalò a Firenze, non a un signore di Firenze, a Firenze, alla città. Quindi i turisti vengono a Firenze perché ci sono queste manifestazioni, queste opere, queste cose pubbliche e vengono a Firenze. Ora, la madre di tutti i problemi, il peccato originale del turismo è che il turista che viene, soprattutto con una ferita, che è interessato a queste cose, viene a vedere delle cose pubbliche, ma poi i problemi, i benefici di tutta questa faccenda non vanno a Firenze, al popolo di Firenze, sostanzialmente a quelli che in qualche modo permisero che queste opere fossero fatte, eseguite anche per. No, vanno poi a finire all'albergatore, al ristoratore, al capitale, infine, no? A chi ha avuto la possibilità di investire e di fare le attività. Quindi questo è fondamentale, cioè è la base sulla quale si fonda l'ambiguità del turismo, no? Che sembra in qualche modo sia uno scambio tra popoli, quando in realtà è poi diventa un investimento capitalista rispetto al discorso del modello statunitense. Quindi questa cosa la ricordare. E su questo mi collego anche per dire un'altra cosa che non ho sentito dire fino a stasera, che è quella che il nemico di tutto, il nostro nemico, è il capitale, non è il turista. Cioè tutti siamo turisti, a tutti piace andare a fare un giro, andare a vedere le cose che non conosciamo. Come ben sanno, come ben hanno fatto a Barcellona, nelle loro manifestazioni contro il turismo, contro la turisticizzazione della città, hanno indicato anche i turisti, perché tutto sommato i fiorentini soffrono con il turismo. Però anche il turista non vuole mica a essere scolpato e maltrattato e trattato a molte colonne come viene fatto sostanzialmente in questa città. Quindi, allora, è vero che i residenti si possono organizzare in qualche modo in strutture, in comitati, in collettivi, in associazioni, in operazioni, in azioni nelle strade, in azioni politiche, eccetera. Mentre il turismo può essere difficile farlo non lo possono fare perché sono estremamente dispersi, però in qualche modo implicati in questa cosa sarebbe interessante, cioè in qualche modo che anche loro si possono lamentare di come vengono trattati, di come vengono sfruttati al pari delle città. Sostanzialmente dice c'è un grande bacino di fornitori di attrattori turistici che sono gli abitanti di questa città con i loro beni artistici, e dall'altra parte c'è una grande platea di persone che vengono a vederli, e nel mezzo si forma l'intermediazione capitalista, cioè chi è il capitale che si permette di prendere i beni pubblici da una parte e di rivenderli come se fossero loro soldi ai turisti. Cioè, e su questa cosa anche parlare con le persone. Allora, sono molto d'accordo con quello che hai detto, ovviamente anche parteciperò a chi vi ha detto. Ma grazie, era questo.